posso pur sempre ancora sognar, con le mani strette nel fango, un pomeriggio mi risvegliai, basta solo un raggio di luna, ora io so che fa sanguinare. Sto nel pianto, io quella sera non mi voltai, dove c'è rabbia, dove c'è sabbia, ora io voglio per questo parlare, con i piedi persi in un lembo, ora e per sempre mi ritrovai, dove c'è freddo chiuso qua dentro. Rinasci, rinasci, rinasci mente, rinasci, rinasci, rinasci mente, rinasci, rinasci, rinasci mente, rinasci, rinasci, rinasci mente. E negli sbirri a sorvegliare, chiedi del pane, ottieni uno sgarro, e non c'è sguardo che possa aiutare. Come una serpe avvolta in un palmo, con un pugnale mi vendicai, rinascimento, portami in salvo. Ora la giostra può continuare, ora la giostra può continuare. Rinasci, rinasci, rinascimento, rinasci, rinasci, rinasci.